love of my life. I love you so. Love of my life. Love of my life. I will never go. I love you only. Love. Love. Love of my life. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Lasciati baciare e abbracciare. Ma no, ma perché ti sembra il caso oggi così? Baci e abbracci, no? Baci e abbracci. Ma Drago, è il senso della vita, essere amici abbracci. Di tutti, baciare, abbracciare il mondo intero. Ma baci e abbracci, scusa, non è quel marchio di vestiti di Bobo Viera e Paolo Maldini che è fallito da... No, lì era Sweet Years. Beh, però scusa, baci e abbracci, qualcosa del genere. Sì, è sempre un marchio di vestiti felpe, di vestiti. Felpe, vabbè. Sempre gestito da Bobo Viera, ma non con Paolo Maldini, bensì con Roberto Adago, tuo quasi un omonimo, perché Adago, Adrago. Sai che i cinesi in effetti mi chiamano Señor Adalago. Vedi? Quindi andrebbe bene anche Señor Adago. Ecco, però oltretutto il marchio baci e abbracci è sparito da tempo. Chissà perché, perché è fallita la SRL che ci stava dietro. Vabbè, si sono separati i due soci, Adalago e... Sì, ma oltretutto non si erano anche un po' presi male Vieri, questo tizio Adago? Sì, perché Adago aveva morsicato il naso di Vieri. Come morsicato il naso di Vieri? Sì, si è avvicinato per abbracciarlo e baciarlo e zac! Ma ha cercato di strappargli il naso a morsi. Ma è un pazzo completo. Sì, ma il bello è che qualche tempo fa ha fatto lo stesso con un'altra persona e stavolta il naso gliel'ha staccato davvero. Beh, questo è un Rottweiler travestito da uomo, questo Adago. Praticamente è andata così. Aveva tre ospiti in casa sua, Quartogiaro. Bello, tre reduci da una serataccia in discoteca, tipo venerdì. Non so se era venerdì, ma la serata sì, era sì, li aveva raccattati su, no? Dice, dai, andiamo a casa mia, su. A fare un così, chissà cosa faceva. Chi lo sa. Il mattino dopo si è svegliato e non ha più trovato il suo iPhone. Adago, e cosa fa? Ha incolpato uno dei tre ospiti. Sì. Tra l'altro che era un pluripregiudicato. Oddio, no, non bisogna mai incolpare i pluripregiudicati. E allora Adago, come conviene, cosa ha fatto? Ha morsicato il naso dell'uomo, gliene ha staccato un pezzo, l'ha sputato sul pavimento. E poi? E poi sono arrivati i carabinieri, le forze dell'ordine, e li hanno trovati mentre uno cercava il proprio naso sul pavimento e un altro che inseguiva Adago con un'accetta. Ma come? Ma tutto questo non al cinema, ma in un appartamento milanese. Capito? Baci e abbracci. Che secondo me è meglio morsi e accettate. Cari bambini di Roma, ma è vero quel che si dice in giro, anzi quel che dice la regista Cristina Comencini sulla vostra città? Lo chiedi a me, cos'hai? No, ho detto cari bambini di Roma, sto parlando ai bambini di Roma, non a te. Ma qui bambini di Roma non ce ne mica, siamo a Milano, Drago. Ma qualcuno ci ascolterà da Roma, no? Anzi, Adalago. Da Roma qualche bambino sarà. Sì, ma non ti possono rispondere. Ma come no, c'è Facebook, c'è la mail, c'è tutto, quindi rispondete a questo mio quesito. Voglio sapere come mai tutti si lamentano che a Roma mancano gli asili nido, gli asili normali e gli spazi per far giocare i bambini. Una città così grande mi sembra strano che abbia certe lacune, cosa dici? Infatti Villa Ada, Villa Borghese, Villa Panfili o Panfili? Panfili, no, Panfili. Certo. E Panfili. Ce n'è pieno di posti dove far giocare i bambini. È pieno anche di Panfili a Roma. No, Panfili no, sono Ostia. A Ostia, ho capito, ma quanti sono i romani che abitano a Ostia o nelle zone delle tre ville che hai detto? Pochi, la maggior parte abita in quartieri lontani, che evidentemente sono privi di parchi, di centri di aggregazione e tutte queste cose qui. È di questo che si lamenta Cristina Comencini, se la prende tanto per cambiare con il povero sindaco alemano che da quando è sindaco non gliene va bene una. Sì, vabbè, cos'è? Fortuna, sfortuna. Sì. Ma non ci si crede, Drago, la fortuna, la sfortuna. Dai, va tutto male. Alemano non gliene va bene una, è vero, ma forse perché è colpa sua, no? Non sarà mica solo questione di avere le stelle, i pianeti ordinati giusti. Vabbè, insomma, dai, Roma è sul banco degli accusati per essere una città poco a misura di bambini e questo è in netta contraddizione con la caratteristica principale della squadra di calcio della Roma, che come tutti sanno è la squadra per cui tifiamo qui a Chiedo Asilo. Sì, no, proprio a misura di per bambino. Favore, sai che io di calcio non ne so niente. Mi trascini sempre in discussioni che non mi interessano e poi però degenerano queste discussioni come sempre quando si parla di calcio e le conseguenze poi me le devo beccare io. Solo perché i tifosi della Juve via web hanno minacciato di sgozzarci. Sì, sono vabbè, cose che succedono. Via web hanno minacciato, ma per sgozzarci ci sgozzano dal vivo, mica via web. Ma figurati, ma nessuno sgozzerà nessuno. Abbiamo scherzato un po' sulla Juve proprio perché ha vinto lo scudetto quest'anno ed è giusto prendere in giro i vincitori. Cosa dici? Sì. No? Ricordiamo ai tifosi tifosi juventini che non abbiamo mai infierito quando era in Serie B o quando arrivava decima in classifica. Sì, e di quello devono. Ma tu sei tranquillo, ma io non tanto, Drago. Vabbè. Perché gli ultras, o ultras, ultra senza la S, mi fanno un po' paura e mi fanno anche un po' orrore. Vabbè, ma sono uomini e donne anche loro, eh. Basta che non arrivino anche quelli della Roma adesso. Ma come potrebbero? Qui a Chiedo Asilo si tifa per la Roma, si simpatizza per la Magica, non potrebbero mai prendersela con noi, dai. Sì, ma tu dici che noi tifiamo Roma perché è una squadra infantile. Non so se sono tutti d'accordo, non è tanto bello. Ma come non è bello? Scusa, è il massimo dei complimenti. In un mondo del calcio ormai logorato dai soldi, dalle scommesse, tutte ste schifezze, esiste ancora una realtà in cui la fantasia ha il potere. Il presidente che si butta in piscina, gli allenatori che arrivano dalle squadre dei ragazzini, er pupone Totti che tiene tutto sotto controllo. Ma voglio dire, Totti ti sembra uno che tiene tutto sotto controllo? Appunto, è proprio questo il bello della Roma. Ma adesso basta con gli allenatori dei bambini, basta Montella, basta Luis Enrique, adesso arriva Zeman. Chi? Capa, ma studiati un po' di storia, studiati un po' la materia. Zdeněk Zeman, mai sentito? Ma sembra uno scioglilingua polacco. No, non è il cardinale Wyszyński, è Zdeněk Zeman, nome e cognome cechi. Ma è un bel chi se ne frega. No, attenzione, attenzione, perché Zeman è anche quello che ormai una decina d'anni fa osò fiatare contro la Juve. E l'uso disinvolto che la Juve faceva della farmacia interna. Ti ricordi il processo per doping? Il dottor Agricola, quelle cose lì. Non lo so, Drago, e soprattutto chi se ne frega. Ma tutto questo per dire alle mamme romane che non sanno dove far giocare i propri bambini: mandateli a giocare a pallone nella Roma. Più sono bambini, più sono immaturi, meglio è. Vuol dire che sono già pronti per far parte della prima squadra. Ecco, adesso ci arrivano le minacce anche dai tifosi della Roma, sono sicuro. Ma quali minacce, capa? Anzi, intoniamo col grande Antonello l'inno che ci fa sognare. Grazie Roma, all'immortal guerrieri tutti insieme, all'immortacci, grazie Roma, che la pagliata rimamo a faccia morta, Corvino Delicastello. Vabbè, comunque grazie, sai che anche Venditti va in giro a mordere il naso alla gente. Ma come? Eh sì, sai come va? Qui diceva ci fai abbracciare, baci abbracci, sai come poi finiscono le cose, no? Ma questi sono baci e abbracci, mica morsi e accettate. Morsi e accettate. Morsi e accettate. Wunderwaffer. Chiesa d'asilo. Nella merenda oggi c'è una sorpresa. Occhio ragazzi, perché Wunderwaffer è l'ostia sottilissima che ti dice hai vinto, hai vinto. Stica piano e non mandare giù, c'è una sorpresa nuova. Sì, è una buona merendina. La compra, la compra. La compra. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Cazzo cazzo culo culo vaffanculo vaffanculo. Cazzo cazzo culo culo vaffanculo vaffanculo. Vaffanculo vaffanculo. Vaffanculo vaffanculo. Fra poco servizio pubblico ricomincia. Ecco, fra poco di nuovo c'è servizio pubblico. Non so se la scorsa settimana poi ha replicato. Io farei modalità. Una canzone di questo cazzo. Però bisogna fare un rap. Tipo... Il popolo del web che è sempre lì a fare le canzoncine. Non ha ancora fatto cazzo cazzo culo culo. Non lo so. Il popolo del web esiste. Il popolo del web. Sta chiamando. Ecco, bravo. Rispondi. Vabbè, a domani 16:45. Chiedo asilo. È finita. Sì, mamma, dimmi.